Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Voglia di dolce o di salato? È una questione di gusto o c'è dell'altro? Intanto buongiorno da Nicoletta Carbone, sono le 11.09, un'altra puntata insieme. Stavo riflettendo, forse i nostri geni ne sanno qualcosa, chissà se dipende da loro e solo da loro la preferenza per la focaccia di alcuni o della torta al cioccolato per altri. Sono le 11.10, voi di che cosa avete voglia in questo momento? Chiamatemi 800 24 00 24. In studio con me qui il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Buongiorno. Ma buongiorno a tutti. Dolce o salato? Io sai che sono un bastian contrario, quindi io dico saporito, che mi piace, che può essere quindi sia sul piano del dolce che sul piano del salato, per come la vede la gente. Si può avere mangiare saporito anche senza aggiungere sale, quindi avremo da discutere nel corso della giornata. Naturalmente potete intervenire 800 24 00 24 se vi piace mangiare saporito, dolce, salato, un po' amaro, piccante. Dottor Speciani, le preferenze si vedono già al mattino. C'è chi sceglie la colazione salata, chi quella dolce. Ogni scelta naturalmente i suoi vantaggi e i suoi limiti. Proviamo a metterli un po' sulla bilancia e intanto proviamo a farci suggerire dai nostri ascoltatori il menù della loro colazione, così magari convinciamo anche quelli che solitamente la colazione non la fanno. Chiediamo ai nostri ascoltatori di darci il loro menù e lei premierà il menù. Il migliore e il peggiore, perché sì, abbiamo, modo abbiamo di un po' di libri da darvi e un libro ce l'ha portato il dottor Speciani, Iperglicemia e diabete, e ha visto lungo, ma c'è naturalmente la libreria di Essere Benessere che alle porte dell'estate si apre e così esce. E arriva a casa dei nostri ascoltatori. Quindi 800 24 00 24 sono già arrivate alcune colazioni sul nostro profilo Facebook che le leggerò nel corso della trasmissione, ma iniziamo. Di solito chi sceglie il salato inizia con... Ma guarda, qui il problema è la gente quando mi distingue questa cosa, le domande, che è una delle prime domande che faccio quando affronto un tema alimentare, è proprio come fa la prima colazione, perché lì c'è l'imprinting, cioè come la base di quello che poi uno mangia nel corso della giornata. E di solito prosciutto piuttosto che le uova, la frittata, cose di questo genere, il salmone, no? Questo lo vedi subito, sono persone abituate con una cultura abbastanza più nordica, se si vuole, e sono gli amanti del salato. In realtà, quando le persone mi dicono che mangiano cappuccio e brioche oppure la fetta biscottata con il biscotto, sì, in realtà se dovessimo analizzare il quantitativo di sale che c'è dentro a queste cose che loro credono dolci, sono elevati, quindi in realtà è proprio una questione del gusto, perché il contenuto di sale poi potremmo misurarlo e scopriamo che non sono così diversi, è proprio un legato alla percezione. Comunque diciamo che prosciutto, pesce affumicato, uova sono gli identificanti della tipologia della salata, no? Salata. Mentre classicamente il dolce, il biscotto, cornetto. Perché lo dice così? Ha detto quello salato, ha detto il salmone, le uova, gli affettati, il dolce. Intanto perché quando la gente, se trovo un dolce fatto bene, con farina integrale, fatto in casa, eccetera, lo amo pazzamente. E in realtà poi la gente spesso, li vedi, a me fanno sorridere le persone che arrivano e dicono mi dia una brioche quelle vuote. No, al mattino, che cogli, che mettono 8 cucchiaini di zucchero dentro nel cappuccino e però mangiano la brioche vuota come se dovessero risparmiarsi sulla salute. C'è una problematica legata all'industrializzazione della produzione, spesso biscotti, brioche, queste cose in realtà se sono fatti bene, regola d'arte, sono ottimi, no? E in realtà sono spesso cibi industriali, quindi con grassi vegetali idrogenati aggiunti, eccetera, mentre un uovo sodo, hai voglia di inventare un uovo sodo, insomma, santo cielo, è fatto così. E c'è chi mixa dolce salato, caffè latte con focacce, Liguria è un classico, la nostra amica di Facebook, Laura, lo accompagna addirittura con pane e salame. Ma è fantastica, direi che sta utilizzando una tecnica di lavoro in cui comunque mantiene un po' di rapporto col sale, ma i liguri il rapporto col sale ce l'hanno, certo. Davanti, quindi si muovono in questa direzione. E, però è già un bel mix. Poi ho visto un sorriso nella Nicoletta e questo la dice lunga, perché evidentemente abbiamo condiviso dei tempi in cui l'unico mare per noi milanesi era la Liguria, quindi focaccia con qualcosa da pucciare nel latte era buono. La dice lunga sulla nostra età, Nico? No, parli della sua. Chiara da Piacenza. Chiara da Piacenza, buongiorno. Buongiorno. Io non ho preferenza né per il dolce né per il salato. Bevo moltissimo latte. A metà mattina, ad esempio, sento l'esigenza di bere latte, a volte anche come sostitutivo del pranzo. Mangio molta verdura, carne, pesce, ma dolce e salato non mi interessano. Cioè, quindi le focacce, le pizze, le torte. Sì, gusti apparentemente neutri, so che è sbagliato definirli così, ma intanto per differenziarli da quelli che percepiamo proprio come salati, focaccia, dolce, torta. Ma è buono, cioè devo dire che, a parte, mi veniva da chiedere l'età e pensavo tipo, non so, 4-6 anni, la nostra ascoltatrice, che è come chi beve molto latte, non è legato all'infanzia da qualche parte. No, però è un gusto neutro e il latte di per sé è un alimento completo e correttamente bilanciato dal punto del gusto, è giustamente salato, giustamente dolce, giustamente proteico, giustamente carboidratico, no? Poi facilmente diventa anche causa di ipersensibilità o di reazione da cibo, però effettivamente la nostra lettrice e la nostra ascoltatrice ci sta dicendo che mangia latte, le piace e lo bilancia con un giusto rapporto di proteine. Potrebbe essere un'ottima soluzione nel suo caso. Al 349-238-6666 mi stanno arrivando le colazioni dei nostri ascoltatori. Voglio sapere. Edi da Belluno, 57 anni, mi scrive: la mia colazione è bicchiere di yogurt fatti in casa con 5-6 prugne secche o uvetta passa. Oh, ha finito, eh? Bene. Beh, secondo me è buona come tipo di qualità, sicuramente. Un po' pochina, però poca, dai. Io ci aggiungerei sicuramente a fianco una fetta di pane integrale spalmata con un po' di ricotta, ci metterei dentro 2 o 3 mandorle e, visto che viene da Belluno, non so, un prosciutto fatto locale, una bresaola del posto, cioè aumenterei lievemente la quantità usando anche del pane integrale, direi, con tranquillità. Adesso la stendo, ma soprattutto d'inverno, una volta al mese, la mattina, una pizza fritta appena fatta, ripiena di ricotta e cotto. Dunque, va tutto bene. Se la pizza fosse fatta al forno, senza grassi cotti, ma uno che mi dice la pizza fritta, già qualche spunto di riflessione lo faccio, no? Nel senso che si possono mangiare anche cibi saporiti e ricchi, come fanno tra l'altro i paesi più magri, la gente più tonica, in realtà è abituata a mangiare pesce piuttosto che non cereali integrali al mattino, in un certo modo anche combinati in colazioni che sembrano un po' pesanti. Però insomma, la pizza fritta in partenza, però tutto sommato anche segni, perché io noi segno, abbiamo dobbiamo fare noi dobbiamo la lista dei top e dei down. Allora, mi affido a lei, Sì. Come alle adunate degli alpini o certe giornate in montagna, Massimo ci scrive: minestrone, griglia, salumi e vino, la colazione dei campioni, forse a pranzo. Dunque, piuttosto che alle 7 del mattino mi sembra un dunque, po'. Io direi che però andiamo cauti. Se togliamo il vino, che comunque, questo lo dico pur avendo fatto l'ufficiale alpino nella mia vita, quindi conosco la mia tenuta in litri, come si scherza, però il vino al mattino probabilmente induce una serie di considerazioni di induzione del metabolismo che possono essere anomale, però il resto non è malvagio. È come fare un pranzo. Io spesso ai miei pazienti dico: fate un pranzo al mattino, fatelo diventare il momento più importante. Questo mangia verdura, mangia proteine, mangia carboidrati, è un'ottima colazione. Sul vino lo mangiamo poi in sera, lo beviamo poi in serata, dai Massimo. Sulle nostre tavole, comunque, intanto che voi continuate a scriverci, il dottor Speciani segna, nota, sostituisce, equilibria, aggiunge, ha tolto proprio giusto il vino, quindi ci toglie poco. Comunque, sulle nostre tavole No, la pizza fritta ho tolto, dai, scusa. Vabbè. Proprio per poco sale, troppo sale, troppo zucchero, e voi da anni medici ce lo state dicendo, ma negli ultimi tempi con particolare enfasi, perché zucchero e sale, che sulla lingua sembrano così diversi, in realtà producono danni abbastanza simili se assunti in eccesso. L'alimentazione, cibi industriali, le nostre aggiunte, è comunque ricca troppo di sale e di zucchero. Dottore, ma questo è un bel tema, perché un'alta concentrazione di cibo salato, come un'alta concentrazione di cibo zuccherino, hanno questa strana facoltà, il termine tecnico è che passano la barriera emetoencefalica. Mi licenzio subito. Vuol dire che, come dire, arrivano direttamente al cervello, cioè riescono a superare delle barriere che noi normalmente poniamo al contatto con le parti alimentari che mangiamo. Questo porta ad una facile dipendenza d'uso. Cioè il cibo salato richiama cibo salato, il cibo dolce richiama cibo dolce, diventa una sorta di meccanismo ripetitivo che non ci sta, perché noi nella nostra storia, nel paleolitico, avevamo l'incontro con il dolce solo in modo occasionale, l'incontro con il salato solo in modo occasionale, che erano una ricchezza, sono una ricchezza assoluta, però devono essere bilanciati in modo corretto. Quindi questo dato è importante, e infatti vedi che le aziende, le industrie purtroppo stanno aumentando la presenza di sale e di zucchero misconosciuto, cioè non dichiarato, non precisato, in maniera notevole. C'è una recentissima survey fatta dal Sunday Times in Gran Bretagna, dove ad esempio comparando intorno agli anni 80 100 grammi di cereali, quindi mangio sano eccetera, contenevano meno di 10 grammi di zucchero, e oggi ne contengono 17. È quasi raddoppiato, e probabilmente si andrà verso un elemento, lo stesso vale per il sale, per alcune preparazioni, quindi cautela, anche perché nessuno di noi sa esattamente, perché non ci mettiamo a pesare il sale, lo zucchero, non possiamo neanche fare dei calcoli particolarmente difficili, perché non è solamente quello che aggiungiamo, ma quello che troviamo negli alimenti e il contenuto di sale e di zucchero nei cibi industriali, no? Sta aumentando di quantità, quindi abbiamo una vaga idea di quello che mettiamo, ma è possibile sapere se la nostra dieta è troppo dolce o troppo salata. Ne parliamo con il dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Bentornato. Interessantissimo quello che ho sentito, buongiorno dottor Speciani. Dottor Gargiulo, fuori le prove allora. Allora, fuori le prove, sì, effettivamente, intanto subito una poesiola, dolce o salato purché sia equilibrato, e quella è la colazione del mattino. Bellissimo. Vince il libro. Adesso diamo un libro anche al dottor Gargiulo. E quindi direi che abbiamo la possibilità però di controllare tutto questo. Allora, il dolce lo possiamo controllare, se esageriamo con lo zucchero, facendo un esame del sangue, la glicemia, che è un esame del sangue di routine e che ci dice se il nostro livello di zucchero è più alto del normale. Se troviamo un livello più alto, però, attenzione, non ci fermiamo lì, facciamo anche un'emoglobina glicata, cioè un esame che ci consente di dire negli ultimi 3 mesi che cosa è successo, quanto zucchero ho assunto, troppo poco. Questo ci fa capire se abbiamo una predisposizione verso il diabete, quindi un'intolleranza glucidica o una resistenza all'insulina. Se così non fosse, un pochino di zucchero in più, occhio alla dieta, ma possiamo tranquillamente utilizzarlo. Allora, per lo zucchero quindi siamo a posto, ma per il sale, dottor Gargiulo, che facciamo? Per il sale diciamo che è sempre un po' troppo il sale che prendiamo, perché in realtà dovrebbero essere 3 grammi il cloruro di sodio, il fabbisogno giornaliero, e questo fabbisogno noi lo saturiamo, se non consideriamo gli alimenti, con un cucchiaio scarso di sale. Però consideriamo anche che negli alimenti, dal formaggio agli insaccati, a volte anche a quegli alimenti già confezionati che compriamo e per necessità e urgenza dobbiamo utilizzare, troviamo dentro del cloruro di sodio. Quindi io direi non aggiungete sale, cercate di abituarvi fin da piccoli a non mangiare salato, anzi ad abituare i vostri figli a non mangiare salato. Facciamo subito, gli adulti, piano piano, se possono cominciare a togliere il sale aggiunto, quindi niente saliera a tavola, solo un po' di sale nell'acqua della pasta, e via via eliminare anche quello quando è possibile. Se però noi ai nostri figli insegniamo subito che il sale non serve, perché gli alimenti hanno già il loro sapore, perché i bambini non sentono questa necessità, li abituiamo ad un gusto diverso che poi quando saranno adulti sarà molto utile per loro e ci ringrazieranno. Quindi come assolutamente, dottor Gargiulo, rivolgiamoci alle mamme, svezzamento, sì. Non aggiungete sale nelle pappine, perfetto, è questo, perfetto. Non aggiungete zucchero, non mettete anche il ciuccio nel miele, bravissima. Che poi non solamente può rovinare anche la salute dei denti, ma comunque li abitua ad un gusto dolce. Esatto. Certo che con tutte queste indicazioni sembra che la vita diventi amara, ma, dottor Gargiulo? No, non è vero che diventa amara, assolutamente. Anzi, abituandosi al sapore dei cibi senza aggiunta di sale, cominciamo a gustare molto di più il loro vero sapore, il loro, la loro intensità. E poi possiamo usare anche delle spezie, possiamo usare l'aceto balsamico, quindi utilizzare altre sostanze che ci aiutano a rendere più saporiti questi alimenti senza darci ulteriore cloruro di sodio. Come controllare il sodio? Esame del sangue per la sodiemia è un esame importante per vedere se ce n'è troppo poco. Quando è in eccesso un po' meno, diciamo che non ci dobbiamo fidare di quello, ma c'è un esame molto semplice, misuriamo la nostra pressione. Se la pressione è normale vuol dire che anche il sale che stiamo assumendo è normale e quindi a quel punto possiamo stare più tranquilli. Ultimo consiglio per le donne, attenzione al sale perché ovviamente rischia di far aumentare la cellulite. Ai ai ai ai, allora, questa è una buona ragione allora per diminuirne un po', almeno di quello aggiunto e leggere le etichette degli alimenti. Esatto, dottor Gargiulo, perfetto. Grazie, buona giornata, buona vacanza anche. Grazie. Allora, abbiamo un'ascoltatrice, Graziella, che mi sta particolarmente a cuore perché ci dice, bravi sempre, questo mi piace, ma ci dice che stamattina si sente rimproverata. Anche lei è una di quelle che prende una brioche vuota, ma aggiunge, bevo un cappuccino, quasi caffè latte, quindi con più latte, ma completamente amaro, senza zucchero. È così grave, non mi togliete cappuccino e brioche la mattina che mordo. Purtroppo soffro un po' di ipertensione e sono molto anemica. Ma faccio così male? Che belle domande, eh? Però questa Graziella giustamente dice mi sento rimproverata perché mangio sistematicamente le stesse cose e in effetti ho due problemi che potrebbero lei essere legati. Lei l'ha rimproverata perché lei ha proprio descritto Graziella al mattino, ma lei dice io non aggiungo lo zucchero. Diciamo che è brava perché non aggiunge lo zucchero e questo è un dato positivo. La cosa, l'organismo richiede varietà. Noi abbiamo davvero questo fatto per cui siamo nati attraverso le stagioni, attraverso la storia del tempo e l'avere a disposizione cappuccio e brioche tutti i santi giorni è un elemento che rischia di diventare ripetitivo. Allora è facile che proprio il fatto che lei possa avere un'anemia, una difficoltà di assorbimento e questi stati un po' alterati possa essere legato alla ripetizione sistematica dello stesso cibo. Quindi varietà aggiungiamo, senza togliere, ma aggiungiamo, mescoliamo. Ma poi una micro indicazione, sì. Se si mangiasse, prima di mangiarsi cappuccio e brioche, anche un frutto e si mangiasse insieme un uovo sodo, come quando io, perché solo io sono mi ricordo che nei bar c'erano le uova sode, non voglio dire, e questo è importante, cioè quindi riusciamo a bilanciare meglio proteine e carboidrati. Domenico da Brescia e Eugenio da Terni. Domenico, buongiorno a lei, benvenuto. Buongiorno. Allora, stamattina ho fatto colazione, sono andato nel mio orto, ho raccolto un po' di fragole, ho mangiato due pomodori e poi ho preso una tazza di caffè latte con 4 biscotti. Integrali, spero? Sì. Bravo! Ma è fantastico! Domenico... Senza mettere zucchero. Senza mettere zucchero. Domenico l'ha spiazzata, dottor Speciani. Perché no, ha fatto tutto giusto. No, mi ha fatto sorridere fin dall'inizio quando uno... io, tra l'altro mi ricordo, io quando riesco ad essere sul lago dove ho un campettino microscopico dove coltivo 3 pomodori e 3 cose, io scendo dalla macchina, ancora se è notte, prima vado a vedere se c'è un pomodoro da mangiare o qualcosa del genere. È bravissimo, Domenico per ora è in testa, è nella classifica dei top. Attenzione, Domenico, se la gioca bene. Grazie. Sì, Eugenio da Terni. Buongiorno. E complimenti per la trasmissione, veramente interessante come tutti i giorni. Grazie. Allora io la mattina già 2 punti in più, Eugenio, questo sì. Perché insomma, questa è corruzione, no, questa è corruzione, ma io sono molto molto corruttibile dai miei ascoltatori, assolutamente. Eugenio, vada, è la verità, siete bravi. La mattina io di solito faccio colazione yogurt, frutta, una fettina di pane integrale e del prosciutto. E sono le reminiscenze che mi porto dall'infanzia, quando andavo in campagna dai nonni e mio nonno per colazione, ecco, come l'ascoltatore di prima, faceva l'insalatina di pomodori perché lavorava nell'orto, il pane, queste cose qui, quindi mi porto avanti questa storia. È vero, in effetti Eugenio ci racconta una cosa vera, assolutamente vera, perché rifacendoci alle colazioni dei nostri nonni che quando lavoravano in campagna erano dei veri e propri mini paste, perché affrontavano un lavoro pesante e poi avevano questa bellezza dell'orto a fianco da cui potevano attingere, altro che supermercato. Dottor Speciale. Io dico che Eugenio, l'unica variazione che potremmo fare nel suo caso è di essere certi che il pane possa essere integrale, questo è un dato veramente non usare del pane integrale è come darsi delle martellate sulle ginocchia da soli, no? Addirittura. Ma sì, nel senso che il pane integrale ha dentro 14% di proteine come il cottage cheese, ha un indice glicemico bassissimo e non ingrassa, ha dentro delle sostanze estremamente positive, in un equilibrio come il suo, yogurt, frutta, prosciutto, è fantastico, no? Per cui questo è un elemento buono. Eugenio, con l'aggiunta di pane integrale. Aldo! Aldo! Allora! Aldo! Allora che c'è? Allora abbiamo detto alle 8, sono le 8 e 7. E c'è bisogno di gridare così, qui la gente mi conosce. Dai, sbrigati, scendi che dobbiamo anche ritirare il pacco, dai! Vabbè, finisco di mangiare la peperonata e scendo. Peperonata, alle 8 del mattino. Mezzogiorno, topi morti. Noi siamo qua con la peperonata del mattino, ma però molti dei nostri ascoltatori mangiano il minestrone, la pasta fredda, le aringhe. Al 349-238-6666 arrivano tante ricette, ad esempio Ada ci scrive: colazione, succo di frutta senza zucchero e con cereali integrali, fiocchi di avena o altre, frutta secca, poi frutta fresca e yogurt, a volte anche una fetta di farinata di ceci. Al suo posto pane integrale bio con formaggio leggero. È fantastico, devo dire che Ada si posiziona insieme a Eugenio di Terni e Domenico che ci raccontava del suo orto con le fragole, sono siete sicuramente lì, se la contendono bene, bravi. Allora, riduciamo il sale, riduciamo lo zucchero, cerchiamo di percepire i sapori, perché riducendo un po' il sale noi riusciamo a percepirli meglio, ma in questo periodo dell'anno in cui siamo un pochino più fiacchetti perché il caldo fa scendere la pressione anche nelle persone che sono che hanno una pressione assolutamente normale, per cui diventano un po' fiacchine, mm-hmm. Allora è permesso, chiedo a lei, aggiungere un pizzichino in più? Guarda, o cercare un po' più di sale? Direi assolutamente di sì. E riprendo quello che diceva prima Carlo Gargiulo sull'aspetto della pressione, che magari non tutti si vanno a misurare la pressione, ma un segno che le donne come gli uomini sanno perfettamente riconoscere è le caviglie un po' gonfie. No? E allora vuol dire che se hai le cavigliette un po' gonfie durante la giornata probabilmente stai esagerando con i cibi salati. Allora il suggerimento è: se la pressione è bassa durante la giornata usiamo non il cloruro di sodio ma altri sali come quelli presenti nella patata piuttosto che nelle albicocche, nelle prugne, nelle pesche, quindi sali di potassio che quindi tengono bene sgonfi, sì. E dedichiamo i cibi salati, perché bisogna, serve un po' di sale di cibi salati, magari alla sera quando possiamo essere un pochettino più tranquilli senza caldo, ecco, sì. E vedi, allora troviamo, come diceva, facciamo in equilibrio, per cui non è che neghiamo l'uno all'altro. Possiamo dire che non tutto il sale viene per nuocere. Ma assolutamente, anzi, le persone che tolgono del tutto rischiano un po', insomma. E lo zucchero avrà anche lui qualche, ci stupirà con qualche effetto speciale? Con un poco di zucchero la pillola va giù, la pillola va giù, pillola va giù. Non solo aiuta a mandar giù la pillola, lo zucchero è anche in grado di potenziare l'effetto degli antibiotici. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Nature dai ricercatori della Boston University, guidati da James Collins. Nel corso della ricerca, gli esperti hanno indagato il modo di eliminare definitivamente quei batteri persistenti, responsabili delle infezioni croniche, che per sopravvivere all'attacco dei farmaci si addormentano per un certo periodo di tempo, per poi risvegliarsi più forti non appena l'efficacia del farmaco viene meno. Hanno così scoperto che basta aggiungere una dose di zucchero per risvegliarli dal loro letargo e renderli più vulnerabili all'azione degli antibiotici. Durante il primo esperimento, infatti, aggiungere lo zucchero ai medicinali ha determinato l'eliminazione del 99,9% dei batteri Escherichia coli, mentre l'impiego dei soli antibiotici non aveva avuto alcun effetto. Una sorte molto simile è toccata nel corso del secondo test anche agli esemplari Staphylococcus aureus. Zucchero contro batteri, ma vogliamo capirne di più e abbiamo invitato la professoressa Flavia Franconi, che è tornata a trovarci, professore di farmacologia all'Università di Sassari. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Quante esse mi fa dire tutte insieme, ma il piacere di averle grande. Professoressa, questa ricerca ci dice una cosa dopo aver parlato tanto di sale, di zucchero, di ridurre lo zucchero, dello zucchero si parla sempre male, ma sembra che aiuti un po' nella lotta contro i batteri, è così? Sì, è così, però direi anche farei anche una precisazione, che lo zucchero fa male quando è troppo, perché certo, la giusta dose di zucchero fa assolutamente bene. Perché il nostro cervello va a zucchero e tutti gli ossi organi vanno a zucchero, e diciamo che anche il sistema immunitario dipende dallo zucchero. E devo dire che anche nell'antichità avevano scoperto il potere dello zucchero, perché alcuni cibi vengono conservati nello sciroppo di zucchero, e questo ovviamente era un modo per combattere i batteri, un po' come sotto i cibi vengono tenuti sotto il sale. E quindi combattiamo. Comunque lo zucchero è assolutamente indispensabile per mantenere in attività e alla massima attività il nostro sistema immunitario. Professoressa, ma ci sono dei farmaci, delle terapie che alterano la percezione del nostro gusto? Ci fanno magari preferire dei cibi salati o dei cibi dolci? Allora, ci sono dei farmaci che modificano la percezione del nostro gusto e quindi modificano le nostre preferenze al cibo. Però io quello che prima si parlava un attimino di sale, e vorrei ricordare che molte persone che prendono i farmaci antipertensivi, tipo i diuretici, eccetera, durante l'estate già i diuretici inducono una perdita di alcuni sali, soprattutto quelli di potassio di cui si parlava prima, quindi questi soggetti durante l'estate dovrebbero controllare molto i cibi che mangiano, non vorrei sconfinare, però dovrebbero mangiare di più cibi ricchi in potassio, e questo vale non solo per i soggetti normali ma anche per i soggetti che fanno con una terapia antipertensiva. Questo ha reso felice il dottor Speciali. Sì, sì, potassio, sorrido. Quindi banane, usiamo le banane, le albicocche, le pesche, le mandorle, ce n'è. Condivido pienamente, professoressa. Ah, meno male, grazie, non volevo sconfinare troppo, però bisognava dirlo. Ecco, giustamente una farmacologa pensa ai pazienti, ma soprattutto pensa alle persone che assumono farmaci, e lo fanno, no, regolarmente, per tenere sotto scacco un fattore di rischio importante come l'ipertensione. Professoressa, grazie per essere stata con noi, buona giornata. Grazie e arrivederci. A presto. Bene, buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Allora, io rassicuro Simona da Firenze, che ci dice perché i libri li date a chi sa mangiare, a cosa servono, dateli a chi sbaglia. Oggi diamo a chi sa mangiare la migliore colazione, e la colazione quella più sciancicata, insomma. Quindi Simona, grazie per il suggerimento, ma serenità. 800 24 00 24. Andiamo a Mario da Brescia, sperando che faccia una colazione pessima per potergli regalare un libro della libreria di Essere Benessere. Mario, buongiorno. Buongiorno. Mi dica che non mangia. No, assolutamente no. Innanzitutto lavoro, ma sono anche un runner. Ah. Quindi diciamo che la dieta, infatti saluto tutti i medici, il dottor Speciani in particolar modo. La dieta è molto molto attenta, soprattutto, ecco, come dicevo, niente sale con le insalate varie, quindi non serve il sale, bisogna riscoprire un po' il sapore, sì, dell'insalata, eh? Un goccio di olio, un po' di aceto va sempre bene. La colazione, tendo presente che in questo periodo vado a correre la mattina presto, di solito vado a correre a digiuno, e giusto, poi colazione molto abbondante subito dopo con pane bresaola, un goccio di olio, un goccio di grana, un po' di grana, e soprattutto ricotta consiglio con qualche goccia di miele, perché esalta il sapore della ricotta e la ricotta esalta il sapore del miele. Bastano poche gocce per fare un'ottima colazione. Questo è veramente un testa a testa tra Mario da Brescia e il dottor Speciani. Bisogna invitare Mario qua. Sì, direi assolutamente, abbiamo delle indicazioni positivissime. Io faccio al di là dei complimenti, che siamo abituati dalle trasmissioni televisive ad avere l'idea che la gente faccia colazione in Italia solo con biscotti pucciati nel tè o nel caffè, no? Ecco, questa è la realtà di oggi, ci dimostra che su tutte le comunicazioni arrivate abbiamo persone, qualcuno che mangia strampalatamente, se si può dire, non si può, non importa, ma mediamente la gente ha un desiderio di fare qualche cosa di ricco per una inizio di giornata vera, quindi dai, sono contento, questa è una trasmissione che mi è piaciuta. Grazie a Mario, andiamo a Lucrezia che ci chiama da Roma, 800 24 00 24. Benvenuta Lucrezia. Buongiorno, bellissima Nicoletta, mi fa un piacere di nuovo risentirla. Ah, anche a me, mi dica Lucrezia. Senta, io volevo chiedere un consiglio al dottore. Io sono un dirigente e molte volte non ho proprio il tempo per pranzare, o meglio riesco a così ad andare al bar dell'ufficio verso le 3:30, 4, e il problema è che io devo fare una colazione per tirare fino a quest'ora. Allora, io la mia colazione normalmente è tazzona di caffè e latte e poi con biscotti non light. L'ideale per me sarebbe la fetta di panettone. Ho sentito la cosa, perché biscotti... No. È un senso, è come un peccato in confessionale questo. Dai, Lucrezia, dica tutto, va bene? Vabbè, allora, sì. Pure, non so, pane e Nutella, per dire. Però, per esempio, molte volte per... non posso prendere la marmellata perché poi al mezzogiorno c'ho il buco. Allora ovvio con due banane, mi porto due banane da casa. Però insomma mi rendo conto, ecco, non insomma, si vede. Poi adesso poi vado a cercare un messaggio che mi ha scritto un ascoltatore, troppo carina, eccolo qua. È da poco che vi ascolto, ma continuerò tutti i giorni. Cioè, questo sono io, al mattino solo caffè, almeno 4 fino a mezzogiorno, pranzo con pasta, la cena ho una fame assurda e mangio carne, verdura e pane, molto pane. Sbaglio tutto, vero? Questo mi porta al sovrappeso che ho. Grazie Mirko. Mirko ha vinto il libro del Mirko, il libro, adesso poi vi contatteremo. Comunque quello Mirko, dei pessimi. Questo Mirko, almeno siamo contenti che gliel'abbiamo, sicuramente un libro per rimpostare un po' la sua dieta. Ma ritornando a Lucrezia, Dunque, intanto è bellissimo il tipo di domanda che pone, perché non credo di essere diversa dai medici che iniziano e devono, a volte hanno impedimenti strani, chirurghi, cioè sono situazioni assolutamente non considerabili. Lì davvero va dato valore alla prima colazione. Cosa manca nella tua prima colazione? Allora, ci sono solo carboidrati, quindi giustamente, ad esempio, l'apporto di un po' di sostanze grasse, un uovo sodo ad esempio sarebbe fantastico, delle nocciole, delle mandorle e sicuramente un aumento di proteine, una fetta di prosciutto, ma mangia pure. Io non voglio entrare nella indicazione di come sto usando cibi definiti simpaticamente non light, d'accordo, però l'integrazione con altri aspetti consentirà di arrivare tranquillamente alle 3 senza avere queste fami terribili e questi cedimenti. È normale, non la considero un problema, lo considero un'opportunità. Fantastico. Sapore di sale, sapore di mare. Il sale sulla pelle fa vacanza e ci auguriamo di fare presto un bel tuffo in mare, di lasciarci asciugare e vedere proprio sulla pelle quei ricami bianchi che sono i ricami del sale. A me dà la sensazione di vacanza, ma la pelle è in vacanza o è stressata, particolarmente stressata? Lo chiedo al dottor Fabio Rinaldi, dermatologo a Milano, presidente della Fondazione di Ricerca per la Patologia sui Capelli, che è in linea con noi. Buongiorno, dottor Rinaldi. Buongiorno a voi. Ma il sale, quando noi lo lasciamo sulla pelle, la difendiamo o la aggrediamo? Che cosa dobbiamo fare? Ma la aggrediamo un pochettino, perché effettivamente il sale secca la pelle, questa situazione fa da si dice che fa da ipertonico, per cui porta fuori acqua, però in realtà portando fuori l'acqua porta anche un po' di depurazione, riduce la secrezione del sebo e in realtà la pelle fa abbastanza bene. E credo che il giusto compenso sia: lascio un po' il sale, mi asciugo dopo il mare, lascio un po' il sale e poi mi sciacquo e magari metto una buona crema idratante, così reintegro l'acqua, reintegro la pelle. Ho fatto un po' di peeling con questo sale che mi è rimasto sulla pelle per mezz'ora, per un po' di tempo, dopodiché la pelle sta sicuramente meglio. E i capelli? I capelli invece un po' meno, perché i capelli è una struttura più complessa, per cui conviene sciacquarli i capelli dopo essere stati in acqua, anche ovviamente la piscina, non solo del sale, anzi quasi peggio la piscina. Ma se mettiamo quegli oli protettivi nei capelli, poi fanno una specie di pellicole, quindi il sale non li danneggia, oppure dopo il bagno è sempre meglio in tempi abbastanza brevi sciacquarli con acqua dolce? Ma è sempre meglio sciacquarli, è meglio comunque mettere i protettivi, ricordiamoci anche che vale la pena mettere delle protezioni anche dal sole, perché il sole col sale rovina ancora di più i capelli, quindi comunque vale la pena mettere protezione per il sole e che comunque proteggano il fusto, dopodiché vale la pena comunque sciacquarli con acqua dolce e magari alla sera ripuliti, fatti la doccia, lavati anche, magari applicare delle buone maschere o dei buoni balsami che reintegrino proprio la struttura e l'acqua dei capelli. Insomma, ricordiamoci che l'estate è una stagione difficile per i nostri capelli, tanto che poi in autunno siamo sempre qui a dirci li perdiamo, si spezzano, sono brutti, quindi aiutiamoli a resistere alle aggressioni del sole, dell'acqua, del vento, delle pettinature che noi donne facciamo alla sera. Per esempio i trattamenti cosmetici, se una donna fa una tintura, una permanente prima di esporsi al sole, quindi già danneggiano comunque un pochettino il fusto, già il sole fa male, quindi lo danneggia di più, quindi ancora di più attenzione. Invece generalmente si dice vado, mi faccio la permanente, che così poi sono a posto tutta l'estate, un colpo di spazzole e via. No, lì no. Va bene, grazie dottor Rinaldi, grazie a voi. Grazie, buone vacanze, li tratteremo bene, ci tratteremo grazie. Bene. Grazie. A voi, arrivederci di nuovo. Stefano, buongiorno da Bergamo. Sì, pronto. Buongiorno. Ah, buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. Allora, io mi alzo la mattina, faccio colazione bene col pane di segale integrale, la fetta di prosciutto, un pomodoro, magari un po' di latte di soia con un frutto. Però quello che mi capita spesso è la fame nervosa, ahimè. Cioè quello che basta, ma non è una cosa grave, non è che stiamo parlando che mi viene il terremoto o qualcosa, cioè basta anche un cliente che mi batte la porta in faccia, cosa che in questi tempi è abbastanza, sì, hanno la mano veloce, non posso, mi mangio mezzo chilo di pizza, e questo è quello che succede, oppure parto per le migliori propositi e poi quando vedo il cibo mi sciolgo come davanti a una bella signorina. A una bella signorina. Stefano, dottor Speciani. Allora, la cosa di Stefano è interessante perché qualitativamente dice delle cose sane e sensate, però già usa il singolare, la fetta. Allora, la scelta per modificare questa sua tendenza alla fame nervosa è di creare davvero un saziarsi durante la mattina, per cui la prima colazione deve essere masticata e probabilmente molto amplificata in termini di quantità complessiva. Proprio come dire, mi sazio. Questa cosa impedisce questo senso di fame che avremo nella giornata. E mi raccomando, come diciamo in Dieta Gift, tieni bilanciate i rapporti tra carboidrati e proteine, devono avere circa lo stesso volume. Se mangi 8 fette di pane e un pezzettino di prosciutto è squilibrato. Allora, intanto io con il dottor Speciani possiamo dire già le persone che abbiamo, gli ascoltatori che abbiamo selezionato. Qualcuno li ho selezionati io, altri li ho selezionati a lui. A Mirko, che ci ha scritto un messaggio troppo carino in cui praticamente dice sbaglio tutto, lo so, e questo è il mio sovrappeso. Abbiamo pensato di far ricevere a casa la guida pratica, la dieta gift del dottor Speciani. A Lucrezia invece, anche lei un po' confusa, che cosa mangia, ha bisogno di arrivare fino al pomeriggio, e abbiamo pensato di farle avere Mangia che ti passa del dottor Ongaro. Al dottor Speciani spetta il compito di scegliersi tra Domenico e Eugenio. Veramente è stato arduo, devo dire, Domenico, perché tutti e due hanno lo stesso tipo di vitalità, la ricerca di cibi freschi, della frutta, eccetera. Vince davvero per un'incollatura Domenico, perché è distinto, ha comunicato l'integrale come propria indicazione. Quindi Domenico di un'incollatura sopra Eugenio di Terni, ma tutti e due bravi comunque. E anche a lui diamo una dieta gift. Certo, assolutamente. Daniele da Padova. Pronto, buongiorno, sono Daniele da Montegratto Terme, provincia di Padova. Daniele. Senta, io non so se vado un po' controcorrente, ma in realtà la prima colazione è innanzitutto un buon bicchiere di acqua, sì, temperatura ambiente, sì, e poi faccio un centrifugato, però con un estrattore, quindi a bassi giri, quindi mantiene la frutta, tutte le vitamine, proteine, eccetera, di frutta e verdura di stagione, può essere... Quindi una colazione verde. Verde, va bene, è già una buona partenza. Bravo, dai. Daniele. Abbiamo in linea con noi Giulia Penazzi, buongiorno. Buongiorno a voi. Farmacista e cosmetologa, autrice di diversi libri per tecniche nuove, tra cui cosmetici naturali fai da te, cosmesi anti-age. Esatto, l'abbiamo. Allora, Giulia, noi continueremo la nostra chiacchierata sul sito di Radio 24, sulla pagina di Essere Benessere, perché la dottoressa Penazzi ha preparato per noi delle ricette a base di sale e di zucchero da utilizzare per la nostra bellezza. Esatto. Quindi, Giulia, dacci gli ingredienti, perché noi ci trasferiamo e i nostri ascoltatori possono andare sulla pagina di Essere Benessere ad ascoltare la tua intervista prendendo appunti. Cosa dobbiamo portarci? Allora, dunque, per uno scrub commestibile, quindi sì, che possiamo anche eventualmente mangiare, sale? Dimmi, no, zucchero di canna, zucchero vorrei di... lo zucchero di canna, quello più chiaro, più fine, okay, eventualmente se lo troviamo un po' grosso. Allora, avete mano, lo zucchero di... Scusa Giulia, avete lo zucchero di canna, trasferitevi perché noi adesso chiudiamo, ma con la dottoressa Penazzi ricette. Grazie a voi, al dottor Speciani, buona giornata.